Italia in controluce. È il 30 settembre, vi parla Daniele Biacchesi, questa è la seconda edizione del programma di Radio 24, inchieste, reportage, servizi, approfondimenti sul costume, lo spettacolo, la cronaca e la politica italiana. Sono moltissime le storie, le inchieste, i reportage in preparazione al mattino nella pillola delle 6.30, al pomeriggio quest'ora per i servizi più lunghi. Proseguiremo con le primarie del centro-sinistra la prossima settimana, altri temi che stiamo preparando, gli anniversari del terremoto di San Giuliano, la strage di Linate dell'8 di ottobre, l'alluvione in Veneto del 1 novembre, la criminalità economica a Roma, le iniziative sull'antiriciclaggio del denaro sporco, i ricercatori italiani all'estero, i progetti del carcere di Bologna, ancora la soppressione delle feste patronali, in particolare Napoli, Milano e Gubbio, le interviste nostre in esclusiva a Rosario Priore, il giudice Piergiorgio Morosini, la vedova di Libero Grassi Pino Maisano e molto molto altro ancora. E ora cedo la linea a Piera Ceci per Scuola in Controluce. Scuola in Controluce. Una scuola su due ha partecipato l'anno scorso ad almeno un progetto internazionale, per esempio con scambi fra studenti. Quasi una su quattro ha iniziato ad insegnare una materia in lingua straniera, prevalentemente inglese. In questo inizio d'anno scolastico, cominciato fra le proteste per i tagli e dei precari, finalmente una buona notizia, quella che emerge nel terzo rapporto dell'Osservatorio Nazionale sull'internazionalizzazione, realizzato da Ipsos per la Fondazione Intercultura e la Fondazione Telecom Italia. Piccoli passi, ma che fanno ben sperare in una scuola come quella italiana, in cui le lingue straniere rappresentano da sempre un buco nero del nostro sistema di formazione. Raffaele Pirola di Intercultura. Sì, perlomeno sappiamo che ci sta provando, con un 50% delle scuole italiane che effettivamente nell'ultimo anno scolastico ha realizzato almeno un progetto internazionale. Stiamo parlando di insegnamento delle lingue, ma anche di scambi internazionali tra studenti o di iniziative che coinvolgono i professori. Magari la situazione non è proprio omogenea sul territorio nazionale, c'è il nord che, specialmente il nord-est, scatta in avanti, mentre il sud, ahimè, arretra di qualche punto. Però in generale sicuramente vediamo un maggiore attività e anche una partecipazione maggiore degli studenti che individualmente cercano di andare a fare un'esperienza di studio in un altro paese facendo un anno di scuola all'estero. Come siamo messi dal punto di vista dell'applicazione della riforma Gelmini dell'insegnamento di una materia nell'ultimo anno dei licei in lingua? Ecco, questo è uno degli aspetti positivi che emerge, un po' anche a sorpresa se vogliamo, perché è un aspetto che sappiamo che non è ancora andato a regime, ma il 23% delle scuole in Italia ha iniziato a sperimentare l'insegnamento di altre materie, quindi matematica, filosofia, scienze, in lingua straniera, quasi sempre in inglese. E il grosso passo in avanti lo fanno i professionali, dal 7% di due anni fa al 20%. Quindi insomma quasi una scuola su quattro insegna, almeno in parte, una materia in inglese, che non è poco. Sì, non per tutto l'anno, però finalmente sono numeri significativi. Eppure sono ancora moltissime le cose da fare, no? In questo senso. I docenti forse sono un po' più freddini, perché dicono sì, bene l'internazionalizzazione, ma attenzione che il fardello poi operativo di realizzare i progetti ricade tutto su di noi e soprattutto emerge, proprio a detta degli insegnanti, l'autoconsapevolezza che il 74% di loro si dice di non sapere le lingue straniere. Insegnanti che devono dunque mettersi in gioco sul fronte delle lingue, ma che in molti casi, ad onor del vero, si danno davvero molto da fare anche attraverso percorsi guidati come la piattaforma web Intercultura Lab. Ci spiega cos'è Fabio Di Spirito, segretario generale di Fondazione Telecom Italia. Intercultura Lab è uno strumento che con Fondazione Intercultura quest'anno proponiamo alle scuole italiane che adottano lo strumento dello scambio di classe. Sostanzialmente si tratta di evitare che queste esperienze diventino delle proprie gite di classe e quindi di dare degli strumenti multimediali per cercare di accompagnare questa esperienza di andare all'estero per una o due settimane con tutta una serie di riflessioni su quella che è l'identità del proprio paese e di come possa essere rappresentata anche all'estero. Insegnanti che si danno da fare, ma anche ragazzi che hanno il coraggio di fare armi e bagagli e andarsene all'estero per un'esperienza di studio che poi diventa davvero un'esperienza di vita. Ludovico Terzi, ultimo anno di liceo scientifico a Rocca di Papa, vicino Roma, è stato l'anno scorso un anno in India. Giulia Porro, di Roma, ultimo anno di classico, è stata negli Stati Uniti. Alona Didic, ucraina di origine ed ora l'ultimo anno del linguistico a Rocca Priora, vicino Roma, è stata invece un anno in Argentina. Sentiamo il loro loro racconti, cominciando da Ludovico che ci spiega perché ha scelto proprio l'India. Allora, ho scelto l'India perché volevo un paese culturalmente diverso, quindi sfruttare questa esperienza in modo più completo, e mi interessava la cultura indiana, da sé mi è sempre interessata, con tutti i suoi colori, le luci. Com'erano i tuoi compagni? Com'era la tua scuola? Ce la racconti un po'? Allora, la scuola come struttura non era molto diversa da quella italiana. I compagni erano abbastanza divisi tra quelli entusiasti di avermi e quelli un po' impauriti di questo occidentale nuovo a scuola. E questo ti avrà fatto anche riflettere su quello che accade sui nostri banchi qui in Italia, no? Perché ci sono tantissimi studenti stranieri e noi ogni tanto li guardiamo con diffidenza. E in questo caso sei stato guardato tu con diffidenza? Sì, sicuramente ti trovi nei panni di chi è qui, dove è la situazione opposta, quindi ti fa riflettere. Ecco, si dice che la scuola indiana sta facendo passi da gigante, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie. Ecco, da questo punto di vista hai trovato che sia più avanti del nostro paese? Sicuramente, perché per esempio a scuola a quest'età i ragazzi si specializzano già, quindi le materie studiate sono di meno, sono solo 5, ma sono studiate in modo molto più approfondito. Quindi hanno una conoscenza specifica dell'argomento molto più avanzata della nostra. Eh sì, poi tu fai un liceo scientifico, anche dal punto di vista delle materie scientifiche loro sono molto avanti. Sì, sono molto avanti. Io col programma indiano ho iniziato e finito argomenti che la mia classe italiana deve ancora affrontare in quinto quest'anno. E chissà se ce la farà pure. Ludovico, lo rifaresti? Sì, sicuramente sì. A occhi chiusi. Tu invece, Giulia, hai trascorso un anno negli Stati Uniti. Dove esattamente? Io stavo in Florida, vicino Palm Beach. Ecco, allora, Palm Beach, com'è una scuola di Palm Beach? Sulla spiaggia, no? No. Le scuole americane sono grandi, attrezzatissime per qualunque tipo di cosa. C'erano stadi di football, baseball, tennis, piste da atletica, di tutto. Quindi molto attrezzati dal punto di vista dello sport. Sì, ma anche dal punto di vista scientifico. Ogni classe di scienze era un laboratorio. Proprio come da noi, uguale. Ah, uguale. E senti, com'è stata questa esperienza? Com'è andata con i tuoi compagni nuovi? Ti hanno guardato con diffidenza come hanno fatto con Ludovico in India? No, gli americani sono tutti molto molto amichevoli e non si scandalizzano se non sai la lingua, anzi sono molto amichevoli e disposti ad insegnarti la lingua, ciò che non sai. E gli insegnanti come sono? Anche loro molto aperti e poi c'è un rapporto studente-insegnante molto diverso, perché qui è più formale, lì molto più amichevole. Ci sono veramente punizioni o cose del genere, punizione è una parola brutta, però ci sono, si chiamano detention, e se si fa... Che brutto termine! Infatti, sembra un po' spaventoso detta così, se si fa qualcosa di sbagliato bisogna andare il pomeriggio a fare un corso di pulire o fare attività per la scuola. E invece secondo te cosa ti potrà mancare in quest'ultimo anno di liceo classico della scuola americana? Penso che sono molto più aperti e sono... Questo fatto mi mancherà anche perché lì vengono... C'è un melting pot di culture veramente spettacolare, bellissimo. Ci sono i miei amici, ne ho da tutto il mondo, persone che ognuno ha una favolosa storia da raccontare. Alona, tu da 7 anni eri in Italia, arrivata dall'Ucraina, e hai deciso già di andartene un anno in Argentina. Come mai? Perché viaggiare è una cosa che da sempre mi ha appassionato. E in Argentina cosa hai trovato di così differente nella scuola argentina? Una cosa molto differente che ho notato è che lì la classe è una classe veramente molto unita, perché stanno insieme fin dalla prima elementare fino a quando non finisce la scuola, ed è secondo me una grande opportunità dove gli alunni possono diventare veramente come una grande famiglia. Invece dal punto di vista didattico hai trovato delle grandi differenze? Sono più indietro di noi? Sono più avanti sia come programma sia come attrezzature? Nella scuola dove c'ero io c'erano dei laboratori di chimica, di fisica, che erano attrezzati bene, dove si poteva lavorare tranquillamente. Però una cosa è che ho notato che anche se il sistema di valutazione era sempre uguale che qua in Italia, magari prendere là un 8 o un 9 era un po' più facile rispetto al livello italiano. L'esigenza, diciamo, è un po' più minore. Italia in controluce termina qui la seconda edizione. Torniamo lunedì 6:30 a Radio 24.